La storia e la memoria di Dino Pesole. La grande crisi esplosa nel 2007 negli Stati Uniti e poi estesasi, come sappiamo, a valanga a buona parte delle economie industrializzate, ha minato alla base le fondamenta stesse della ricostruzione europea. Percorso di integrazione molto complesso e faticoso, costruito sul pilastro della moneta unica, ma privo degli altri fondamentali addendi, l'unione fiscale, ad esempio, e soprattutto quella politica. Oggi abbiamo scelto di rievocare quella che Alessandro Barbera e Stefano Feltri definiscono nel loro libro appena pubblicato da Rizzoli, La lunga notte dell'euro. Chi comanda davvero in Europa? Buonasera e benvenuti. Grazie, grazie Dino. Buonasera. Ascoltiamo prima di tutto insieme questo passaggio tratto dal prologo del libro. A partire dal 2007, e in particolare negli ultimi 3 anni, la crisi dell'euro ha sconvolto le nostre vite. Sono caduti governi, fallite banche, capitolate intere economie. Come in un lungo inverno polare, la notte dell'euro inizia il 9 agosto 2007. Quella mattina, BNP Paribas congela 3 fondi di investimento. I sottoscrittori non possono riscattare le proprie quote. La banca francese ha investito in prodotti finanziari che non hanno più prezzo. Nessuno sa più come valutare i titoli derivati legati ai mutui subprime americani, prestiti concessi a famiglie senza garanzie. L'esplosione della bolla dei subprime si riverbera immediatamente al di qua dell'Atlantico. Ecco, partiamo proprio da qui con Alessandro Barbera, dall'immagine delle lunghe file dei correntisti davanti alle filiali della banca inglese Northern Rock, scene che ci hanno in qualche modo riportato indietro alla grande crisi del 1929. Similitudini, differenze, Alessandro? Beh, per certi versi, alcuni lo autorevolmente lo sostennero, la crisi del 2007 è di fatto la versione moderna di quello che accadde nel 29. Le similitudini sono probabilmente sulle premesse, cioè la crisi del 29, esattamente come la crisi del 2007, furono provocate da un'enorme bolla speculativa che c'era stata nell'economia americana, allora l'economia reale più che quella finanziaria, nel 2007 per via di una bolla finanziaria creata per via appunto della smodata concessione di mutui subprime negli Stati Uniti d'America. Quello che invece probabilmente è molto diverso dalla crisi del 29, la crisi del 2007 è molto diversa da quella del 29, è nei suoi esiti, perché dopo il 29 l'America conobbe il New Deal, conobbe la grande espansione voluta dalla allora presidente Roosevelt, che produsse un'enorme fase di prosperità soprattutto per gli Stati Uniti. Da questa parte dell'Atlantico, per la verità, iniziò l'epoca buia che ci portò alla Seconda Guerra Mondiale. Ma la differenza appunto sta nella risposta della politica. Allora la risposta della politica fu molto interventista, e di fatto la teoria keynesiana ebbe la sua massima espressione, mentre oggi ci troviamo stretti in una filosofica ambigua incapacità di uscire dall'austerità che ci siamo imposti in quegli anni, in questi anni, e l'impossibilità di fare quel che si fece allora, cioè tentare di stimolare la ripresa dell'economia con l'intervento pubblico. Ecco, allora Stefano Feltri, passiamo decisamente a analizzare la reazione dell'Europa. Quando la grande crisi varca l'oceano, arriva in Europa, l'Europa si trova impreparata. Ecco, come reagisce l'Europa alla grande crisi? Voi lo ripercorrete con grande precisione nel libro, vediamo appunto di sintetizzarlo per i nostri ascoltatori. Ma diciamo, l'Europa sceglie sempre lo stesso approccio, che è riassumibile nella formula troppo poco e troppo tardi, cioè interviene sempre un po' troppo dopo che, come dire, le cose sono già precipitate. L'abbiamo visto nel caso della Grecia, l'abbiamo visto nel caso di Cipro, l'abbiamo visto nel caso dell'Unione Bancaria, cioè interviene sempre quando il problema è già esploso, non riesce mai a prevenirlo. E poi fa sempre troppo poco, cioè si ferma sempre un attimo prima di fare il passo vero, cioè l'Unione Bancaria, di cui stiamo discutendo in questo periodo, servirà quando avrà il fondo per gestire le crisi, a salvare forse una banca se ci saranno davvero le risorse. La Grecia viene gestita con dei prestiti all'inizio troppo ridotti rispetto alle reali esigenze, e così via. E quindi, come dire, c'è sempre uno sfasamento rispetto alle esigenze dell'economia, e questo è anche da un certo punto di vista comprensibile, perché l'Europa ha un processo recessionale molto complicato, molto che nella crisi ha rivelato un po' tutti i suoi limiti. Se vogliamo essere però, diciamo, vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo anche dire che in questi ormai 7 anni dall'inizio della crisi americana l'Europa è cambiata tantissimo, tutte le sue istituzioni si sono molto trasformate e ha anche dimostrato di saper fare cose che erano considerate impossibili dai difensori dello status quo, quindi non si può essere poi totalmente pessimisti. In effetti, se guardiamo alla storia dell'Europa dal secondo dopoguerra in poi, vediamo che si tratta di un processo molto complesso in cui ha passaggi di integrazione, poi si alternano delle fasi di addirittura passi indietro clamorosi. Allora, l'euro, secondo voi, la crisi dell'euro, la grande crisi che poi è esplosa negli Stati Uniti con l'attacco ai debiti sovrani, può accelerare il passaggio verso una maggiore integrazione politica? Lo dite nel libro, ma appunto sarebbe opportuno capire se la storia ci insegna qualcosa da questo punto di vista. Sarebbe auspicabile che accadesse. Io comincio a pensare che potrebbe avvenire il contrario, o meglio che si rafforzerà l'unione economica, perché ormai le premesse sono tali perché ciò avvenga. L'unione bancaria è un processo irreversibile, così come l'euro, io credo che sia un processo abbastanza irreversibile. Mentre vedo il desiderio forte da parte di tanti paesi europei, spinti anche dai populismi che si sono alimentati in molti paesi, di recuperare un po' di sovranità nazionale su tutto il resto. Una cosa che si è notata poco, che è accaduta alla fine dell'anno scorso e che è fonte di grande dibattito in Gran Bretagna e in Germania, e che in Gran Bretagna ha prodotto il grande successo elettorale dell'UKIP, è che il 31 dicembre dell'anno scorso è scaduto sostanzialmente l'obbligo per i paesi europei di accettare lavoratori extracomunitari provenienti da altri paesi dell'Unione. Insomma, Germania e Gran Bretagna hanno detto di voler ridiscutere quelle regole e di non concedere ad ogni costo, senza certi presupposti, la possibilità che i lavoratori da tutta Europa possano andare in quei paesi. Un altro esempio che citiamo nel libro è che, ad esempio, in Germania si è cominciato a discutere della possibilità di far pagare i pedaggi autostradali a chi non è tedesco. Tutti piccoli segnali di in qualche modo arretramento dell'utopia comunitaria, che però non è necessariamente detto, io penso, possa essere necessariamente un male, se si tratta solo di evitare una omologazione, tra virgolette, che in qualche modo pensiamo di dover in qualche modo imporci in nome dell'unificazione economica e monetaria, recuperando quel tanto di sussidiarietà di cui forse una confederazione di stati, quale l'Europa vuole essere, necessita. Insomma, intendiamoci, negli Stati Uniti è un paese unitario, lui è molto di più dell'Europa, però chi vive nel Montana, orgogliosamente abitante del Montana, e in Montana ci sono certe regole, chi vive nella Florida piuttosto che nello Stato di New York ha altre regole, un proprio Parlamento e un proprio modo di vedere le cose. Invece, ecco, con Stefano Felti volevo approfondire in particolare l'aspetto che riguarda il nostro paese. Un'altra similitudine storica che ci viene subito in mente è quella del 92, grande crisi politica, Tangentopoli, grande crisi finanziaria, l'Italia a un passo dal default. Nel 2011 più o meno siamo nella stessa situazione. Quali analogie e come reagisce? Cosa accade in Italia in quei mesi? Ma l'analogia che piace a molti economisti è che le crisi politiche ci sono quando non si può più fare spesa pubblica, sostanzialmente. Nel 92, per una serie di ragioni, non si poteva più fare, c'erano mani pulite, quindi tutto il sistema degli appalti che finanziava la politica crollava. Nel 2011 abbiamo lo spread e la pressione dei mercati finanziari che riducono il margine di azione della politica, costringendo il governo Berlusconi a fare manovre correttive molto dure, in realtà dure solo sulla carta, perché soprattutto l'ultima, quella dell'agosto 2011, è incompleta per più della metà, perché gli interventi vengono spostati a dopo le elezioni e quindi non viene giudicata credibile. Quindi quello che succede è che la politica si trova, diciamo, intrappolata nei pasticci che ha creato con la sua incapacità di prevedere le situazioni, quindi trovarsi poi a gestire un'emergenza non non risolvibile nell'immediato. La grande differenza è che nel 92 l'Italia era sì un paese importante, era un paese che aveva la sua moneta, quindi che aveva un margine di azione maggiore, ma era un paese per certi versi meno importante, nel senso che nel 2011, quello che raccontiamo nel libro, è che l'Italia si trova a essere la trincea della sopravvivenza dell'euro, dell'Europa, e ovviamente per come era il contesto di fatto di tutta, diciamo, l'economia occidentale, nel senso che se l'Italia fosse andata in crisi davvero come la Grecia, cioè non fosse stata in grado di rifinanziare il debito, sarebbe venuta meno la credibilità dell'intero progetto della moneta unica, quindi dell'Unione Europea, quindi, diciamo, negli Stati Uniti, dove c'erano forti tensioni anche politiche tra repubblicani e democratici, insomma c'era una situazione molto difficile con Obama, che non era così sicuro della rielezione, si rischiava una recessione, diciamo, occidentale o globale, che avrebbe addirittura cambiato la politica degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quindi, sì, quindi troppo grande per fallire, come si diceva, però poi alla fine siamo andati anche noi a un passo dal cosiddetto commissariamento. Sì, solo che eravamo anche troppo grandi per essere salvati, per cui se ci fossero stati i soldi per mettere la troica in Italia, come raccontiamo, forse le pressioni esterne sarebbero state più efficaci. Invece Mario Monti rifiuta la troica, anche perché quando si trova a parlarne col segretario del Tesoro Tim Geithner, concordano che non ci sono i soldi. Se la Cina o i paesi emergenti non rifinanziano il fondo monetario, nessuno può salvare l'Italia. Bene, allora ottimi motivi per consigliarvi la lettura di questo libro, Alessandro Barbera, Stefano Feltri, La lunga notte dell'euro, chi comanda davvero in Europa, appena pubblicato da Rizzoli. Buonasera e grazie a tutte e due. Grazie a voi. Grazie a voi.